Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi restiamo nell'etere perché parliamo di una cosa molto particolare che proprio qui nel territorio della provincia di Bologna si parla di skydive. Wow, è una cosa che già mi mette i brividi. Perché? Perché siamo in compagnia di uno degli istruttori e dei fondatori di Skydive Fly Gang, che tradotto vuol dire tuffo dal cielo. È corretto? Vabbè, diciamo è il nome della scuola di paracadutismo, quindi... Ah, ti ho messo un po' in difficoltà. Allora, intanto vi presento Santiago Calzolari, uno dei titolari appunto di Skydive Fly Gang, dove si fa paracadutismo e non solo. Ci vuoi raccontare che cosa succede? Vabbè, siamo centro di paracadutismo, quindi svolgiamo tutto quello che si fa, nel senso dai salti tandem, per chi magari vuole solo provare senza impegnarsi in un corso, quindi si viene, si salta, video, tutto quanto, video, foto. Accompagnati chiaramente da un istruttore che vi aggancia oppure anche i corsi per chi vuole invece iniziare a saltare, quindi abbastanza spiccia, quindi magari una giornata si fa la teoria e in un paio di settimane i 7 salti del corso, poi da lì chiaramente si inizia e si prosegue, no? Andando sempre più avanti. E per chi è già paracadutista, tutte le discipline che offre il paracadutismo, che sono veramente tante, tantissime, da tutte quelle in caduta libera, che ce n'è di svariato tipo, free fly, derive, formazioni, tutelari, di tutto, anche alle discipline con le vele aperte, quindi quelle anche ad alte prestazioni, canopy piloting, swoop, insomma ci sono anche lì tante sottocategorie in tutto. Ho cercato di riassumere. Hai fatto benissimo, anche perché insomma è un mondo abbastanza vasto e variegato. Dove siete voi a Bologna? A Molinella, esatto, okay. sì. Per avere qualche informazione in più? Vabbè, si può andare sul nostro sito, quindi skydiveflygang.com, poi ci sono anche i contatti dei cellulari che non stiamo a dire adesso, ma in sostanza si trovano. Okay. Sì, se avete domande di qualunque genere o prenotazioni. Io una domanda ce l'avrei, è un regalo che normalmente io ho visto fare per lauree, compleanni o cose di questo tipo. Succede spessissimo, sì. Sì, e poi succede anche che le persone siano spaventate oppure... Beh, tendenzialmente alla fine lo fanno, qualcuno un po' più spaventato di un altro, perché alcuni veramente lo scoprono lì, nel senso che è un regalo. Wow, alcuni lo sanno da prima, è stato regalato un voucher, esatto, ok, sì. Altri... sono stati puntati lì a tradimento, sì, andiamo sì. in un posto e poi si trovano lì sì. con l'imbrago addosso e oh cacchio e però alla fine sì si divertono tutti quanti, assolutamente sì. Poi il lancio in tandem è anche qualcosa che ti deresponsabilizza in qualche modo. Beh, è abbastanza spiccio, può farlo veramente chiunque. Siamo arrivati a 98 anni, una un signora di 98 e una signora di 85 come insomma, un record. Dici, se ce l'hanno fatta loro ce la posso fare anche bene, grazie. Allora Santiago, come si dice in questi casi? Non si dice buona fortuna? C'è un modo prima di saltare? C'è un gesto che è prossimo in radio e quindi per scoprirlo dovete venire a saltare. Ciao a tutti!